La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 18 luglio 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E quest'oggi parleremo di un incrocio che vede incontrarsi due discipline differenti, la matematica e la medicina. E di questo ne parleremo col professor Alessandro Veneziani, professore associato presso la Emory University di New York. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. All'inizio, come da tradizione, abbiamo le cosiddette 100 parole iniziali per descrivere la puntata. E allora, se ti chiedessi di descrivere l'incrocio fra matematica e medicina, tu come lo descriveresti? Ma la matematica è uno strumento che ha un valore predittivo che noi tutti usiamo per le previsioni del tempo. Quando guardiamo le previsioni del tempo c'è molta matematica in quello. Ora, perché in medicina? Beh, perché in medicina poter prevedere se un intervento, una medicina, un intervento chirurgico, poterlo prevedere prima che si faccia ha chiaramente un valore ancora più grosso che per le previsioni del tempo. Però i sistemi da studiare, i sistemi viventi, sono molto complicati, quindi ci vuole una matematica molto complicata, ma è sicuramente possibile usare gli stessi strumenti che siamo abituati a usare per decidere se fare una gita guardando le previsioni del tempo, per cercare di capire perché si sviluppa una malattia e soprattutto se è possibile curarla in un certo modo oppure se è meglio seguirne un altro. Benissimo così Alessandro, adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi cominceremo davvero con la trasmissione. Allora, bentornati a Caccia Fotone. In questa puntata proveremo a parlare, come abbiamo già sentito dal professor Veneziani, di un incrocio fra matematica e medicina. Senti Alessandro, è pur vero che due discipline in teoria non si dovrebbero mai incontrare per conservare, diciamo così, la loro purezza, ma effettivamente, a tua memoria, quando ti hanno commissionato per la prima volta un lavoro che incrociava medicina e matematica? Ma dunque, per quanto riguarda la mia storia personale, ero appena laureato e ho preso un lavoro temporaneo all'Istituto Mario Negri, che è un istituto abbastanza noto a livello nazionale e anche internazionale, ma che è nella città dove vivevo, a Bergamo, e ho lavorato lì per un anno e ero appena laureato in ingegneria elettronica e mi sono appassionato a studiare i problemi del flusso del sangue con strumenti matematici di simulazione. E niente, da quel momento lì, poi nel frattempo ho vinto una borsa di studio di dottorato al Politecnico a Milano e ho chiesto al mio relatore, professor Quarteroni, di poter lavorare su queste tematiche che in quel momento erano abbastanza nuove, almeno nell'ambito matematico. Quindi per quanto riguarda la mia storia personale, subito dopo laureato, quindi dal 1994 direi, però c'è da dire che se uno guarda la storia della scienza, scopre che in fondo i matematici famosi si sono occupati di problemi medici. Ne cito uno per tutti, Eulero, che tutti anche dalle scuole superiori si conosce, che è stato uno dei più grandi matematici che la storia abbia. In realtà ha studiato molto il moto del flusso del sangue, anzi c'è una delle sue opere famose, si chiama proprio Studio del moto del sangue nelle arterie, e lui ha proposto delle equazioni che ancora oggi noi usiamo per descrivere le dinamiche dell'emodinamica nel corpo umano. E allora lui è molto istruttivo, perché finisce il suo lavoro dicendo: ragazzi, questo è un problema molto difficile, io stesso mi rendo conto che arrivando a studiare questi problemi così difficili dobbiamo rimanere ammirati alla complessità del sistema corpo umano. Solo Dio, dice lui, probabilmente può capire, cioè solo Dio può capire completamente quello che stiamo cercando di studiare con questi strumenti. Quindi la storia dell'uomo, la storia della matematica si è intrecciata molte volte con la storia della medicina. Alessandro, senti, se potessi fare una specie di correlazione fra i tuoi studi precedenti e gli studi attuali, che tipo di legame ci trovi? Beh, questa è una bellissima domanda. Dunque, allora, il parallelo è dovuto al fatto che la matematica, io ho appunto, sono laureato in ingegneria elettronica, poi ho fatto il dottorato in matematica, e la matematica è uno strumento che per sua natura si presta a descrivere tante cose diverse. Io ho usato strumenti matematici per descrivere l'azione dei freni nei camion, piuttosto che dei motori della Ducati, piuttosto che i costumi da bagno delle Olimpiadi. La matematica è uno strumento astratto e per sua natura poi si può quindi concretizzare in diversi ambiti con molte similitudini. Questa è una delle cose belle della matematica. Galileo Galilei diceva che il grande libro della natura è scritto davanti a noi con simboli matematici. C'è da dire però che quando mi sono messo a studiare sistemi viventi, ecco, rispetto a un motore a combustione interna non c'è paragone sulla complessità con la quale si deve avere a che fare. Cioè, un sistema vivente, quindi in particolare il corpo umano, ha delle caratteristiche intrinseche che poi si riflettono anche nei modelli matematici che usiamo, di enorme complessità. Ci sono meccanismi di retroazione, dinamiche di adattamento in tempo, in spazio, ci sono complessità che sono secondo me superiori che non nello studio magari di aspetti tecnologici come possono essere appunto i motori o comunque i manufatti dell'uomo. Cioè, i sistemi viventi richiedono una matematica un pochettino più complicata, un pochettino più difficile, e questo giustifica anche il fatto che mentre per progettare un aeroplano si usano strumenti matematici dagli anni 70, per studiare il corpo umano si è partiti negli anni 90, alla fine degli anni 90, estensivamente, cioè tanti gruppi di ricerca nel mondo adesso usano strumenti matematici per studiare il corpo umano, ma c'è una complessità intrinseca notevole che altri studi non hanno. Alessandro, tu in realtà un po' hai anticipato quello che ti stavo per chiedere, perché in realtà, se è vero che il corpo umano è un po' un sistema che si può descrivere con tanti parametri, è anche vero che il corpo umano ha un po' dei parametri che non sono stabili ma sono variabili. E allora, in realtà, quali tipi di parametri possono descrivere il corpo umano e in che modo? Ma quando riuscirò a dare una risposta completa a questa domanda, magari penso che sarò vecchio, magari avrò vinto qualche premio nel frattempo. No, scherzi a parte, è chiaro che è difficile per noi e per i medici, per noi che lavoriamo con i medici, identificare una lista di priorità. Quindi ci sono dei parametri assolutamente fondamentali, sappiamo già che l'esperienza ci dice che vanno inclusi. Io che studio molto il sistema arterioso, sappiamo, ormai abbiamo capito, che non possiamo studiare cosa succede nella aorta senza tenere in conto cosa succede nei vasi delle gambe, nelle femorali, perché sono sistemi tutti connessi fra loro, complicati, quindi dobbiamo introdurre delle resistenze periferiche, dei parametri che ci dicono come ogni particolare agisce sull'intero sistema. E questo va bene, ci sono alcune cose che abbiamo capito, le abbiamo tarate, quando è possibile le calibriamo guardando i risultati dei clinici che i medici ci mettono a disposizione e usando, diciamo, il nostro buon senso e la nostra esperienza ingegneristico-matematica. Però dire che siamo capaci di dare una descrizione compiuta del sistema umano, questo non lo dico, non è vero, e ci vorrà molto tempo, molti decenni di studi. Noi, diciamo, il nostro approccio è quello, quando un medico mi propone di affrontare un nuovo problema, cerco di identificare gli aspetti fondamentali, le cose ineludibili, le cose che il modello matematico che sto per costruire deve sicuramente tenere in conto, e questo deve fornire la base per poi cominciare ad arricchire questo primo modello di tutta una serie di dettagli che via via si rivelano, sull'indicazione del medico, fondamentali. È un po' come quando uno scrive un componimento, prima lo scrive in brutta copia e poi lo perfeziona e lo mette in bella copia. Ecco, noi dobbiamo agire così perché la complessità è notevole, quindi noi partiamo mettendo i parametri che ci sembrano fondamentali, appunto, per esempio, per studiare cosa succede a livello della valvola aortica comunque metteremo le resistenze dei vasi periferici. E poi pian piano cominciamo, la viscosità del sangue è sicuramente un aspetto fondamentale, quindi prendiamo la viscosità del sangue, prendiamo la deformabilità delle arterie, tutte queste cose pian piano le aggiungiamo finché abbiamo un sistema che il medico ci dice ok, questo è quello che mi aspetto. Mi è capitato con grandissima soddisfazione qualche anno fa di avere un chirurgo famoso inglese che ha detto ok, queste simulazioni stanno dicendo quello che volevo vedere, adesso posso usare questi modelli per capire e agire di conseguenza. Alessandro, un po' usando le tue parole, praticamente in questo momento la scienza, o meglio la matematica applicata alla medicina, sta cercando di scrivere la brutta copia, e quindi in futuro ci sarà la bella copia, quindi ci sarà la descrizione del corpo umano attraverso la matematica. Ma questo è qualcosa di reale, oppure rischia di restare un po' una chimera come la pietà filosofale? Voglio dire, è proprio vero che la complessità del corpo umano si può descrivere con semplici equazioni? Anche questa è una bellissima domanda, complimenti. Dunque, io vorrei dire col cuore che stiamo lavorando tutti insieme, vari gruppi nel mondo, per avere poi una descrizione, diciamo, in termini completi dell'uomo. Ora, è possibile che ci si arrivi? Non lo so, confesso che non lo so, ma è un problema, cioè sicuramente qualsiasi cosa otterremo sarà affetta da errori, questo lo sappiamo, il problema non è non avere errori, ma il problema è saperlo e cercare di limitarli, quindi qualsiasi cosa noi facciamo, anche i matematici puri, diciamo, sanno, puri o comunque, diciamo, che lavorano nel settore delle equazioni derivate parziali, sanno che ogni modello comunque non ha dei suoi limiti intrinseci. Non sappiamo quali sono questi limiti in fondo, e questo è il bello, cioè noi sappiamo che costruiamo qualcosa di imperfetto, però non sappiamo dove si ferma la nostra capacità di perfezionarlo, è per questo che avremo sempre da lavorare. Quindi più che, io penso che la bella copia in un certo senso è già cominciata, ma è un sistema in costruzione, quindi stiamo prendendo l'esperienza fatta, che è la brutta copia, pian pianino costruendo un sistema sempre più perfezionato, la cui capacità di descrivere, risolvere i problemi sarà poi tutta da verificare. Sicuramente saprà risolverne molti, ne lascerà aperti altri, avremo altri problemi da risolvere. Ripeto, un po' come a un atleta che si propone di battere un record alle Olimpiadi, gli si può chiedere se non pensa che quel record non sia invalicabile, però lui dice non lo sa, però cerca di batterlo lo stesso. Ecco, noi facciamo lo stesso, abbiamo sicuramente fatto dei passi da gigante negli ultimi 10-15 anni, abbiamo 10 anni fa non eravamo in grado di fare simulazioni che siamo in grado di fare oggi, e non perché abbiamo macchine più potenti, ma perché abbiamo messo una matematica più sofisticata, abbiamo usato molta matematica per risolvere i problemi, fra 10 anni risolveremo problemi ancora più complicati. È un processo in cui noi cerchiamo sempre di arrivare a dei limiti che non conosciamo e quindi non ci fermiamo mai, ecco. Non ci rassegniamo mai a trovare, magari sono invalicabili, ma noi cerchiamo di superarli lo stesso. Alessandro, adesso ci fermiamo un attimo, ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale e poi quando torneremo in studio cominceremo a parlare di matematica e medicina, però applicata ai tuoi ambiti di ricerca, quindi applicata al flusso sanguigno e quindi ai problemi cardiaci. Will the Chinese drop the bomb? You know they will, it won't be long until they're gone into Taiwan. Just like Hong Kong and Falun Gong, they're super strong. Will the police smash your face? You know they will if you step out of place. Bentornati in studio a Caccia al Fotone. E allora, caro Alessandro, adesso siamo ritornati in studio e quindi parliamo proprio degli ambiti della tua ricerca, quindi del flusso sanguigno e quindi in particolar modo dei problemi cardiaci. Come riusciresti a descriverlo un po' il flusso sanguigno in equazioni matematiche, o meglio, senza usare equazioni matematiche, visto che insomma le equazioni matematiche sono piuttosto poco radiofoniche, diciamo. In termini semplici, esattamente, come si potrebbe descrivere? Ma sì, diciamo il sangue è un fluido piuttosto complicato. Diciamo che fra le caratteristiche più semplici da descrivere sono che è un flusso, come dicono i medici, pulsato, cioè nasce dal movimento periodico del cuore che apre la sua valvola all'inizio del battito cardiaco. Per circa poco meno di un terzo, per poco più di un terzo del battito cardiaco attiene la valvola aperta, poi la valvola si chiude e il sangue procede nell'albero arterioso sulla spinta iniziale e poi anche interagendo con le pareti vascolari. È un fluido dove la presenza di globuli rossi, sicuramente in particolare i globuli rossi, in misura minore le piastrine, i globuli bianchi, determinano un particolare comportamento, come si dice in termine tecnico-reologico, quindi come poi il sangue, le molecole interagiscono fra loro di sangue, diciamo. E l'altra caratteristica che è molto presente nei nostri calcoli è che è un fluido incomprimibile, quindi è un liquido con una densità che assumiamo essere costante, anche questa, se vogliamo, un'ipotesi semplificativa, ma sicuramente molto, molto realistica. Quindi tutte queste caratteristiche si riflettono in sistemi di equazioni. Adesso magari gli ascoltatori non si spaventano se parlo di equazioni derivate parziali, tempo dipendenti, quindi perché appunto c'è una dinamica nel tempo, che sono in realtà ben note, introdotte negli anni 1870, si chiamano equazioni di Navier-Stokes. Queste equazioni rappresentano i fluidi incomprimibili con una buona approssimazione e rappresentano tuttora dal punto di vista matematico una bella sfida perché hanno delle caratteristiche intrinseche che la rendono complicata sia dal punto di vista matematico che poi dal punto di vista della risoluzione a calcolatore, perché poi per me la cosa importante è avere una risposta quantitativa, quindi approssimare queste equazioni per risolvere a calcolatore. Quindi questo set di equazioni usato in tantissimi contesti viene adattato e utilizzato benissimo anche per il flusso sanguigno. Poi a questo ci aggiungiamo appunto le equazioni dell'elasticità o comunque le equazioni che descrivono il moto delle pareti, dei vasi, che in certi casi sono importanti, e quindi bisogna aggiungere, complicare, come dicevo prima, pian pianino tutto il sistema, quindi dal sangue ci mettiamo poi le pareti, e poi per esempio se siamo interessati a vedere che cosa fa un farmaco rilasciato nel sangue, avremo anche delle equazioni che descrivono la concentrazione del farmaco disciolto nel sangue. Sono tutte equazioni tendenzialmente a derivate parziali, quando vogliamo avere un certo tipo di precisione di analisi, che quindi si riescono a risolvere a mano, e questo è il motivo per cui le risolviamo in realtà a calcolatore, cioè troviamo dei modi, dei metodi per approssimare le equazioni originali in modo che un calcolatore, che è una macchina in grado di fare operazioni molto semplici, però di farne tante e di ripeterne tante con velocità e precisione, ecco, noi cerchiamo di sostituire a queste equazioni complicatissime, per un punto di vista qualitativo, delle equazioni più semplici da un punto di vista così della matematica, ma tante, tantissime. Quindi facciamo risolvere, anziché delle equazioni differenziali, a un calcolatore facciamo risolvere dai 5 ai 10 milioni magari di equazioni algebriche che un calcolatore è in grado di affrontare, di risolvere in tempi ragionevoli. E il nostro lavoro in realtà è molto legato non solo agli aspetti matematici, ma anche all'uso di calcolatori potenti, e ultimamente non si rinuncia a calcolatori in parallelo, quindi facciamo lavorare non so, un migliaio di processori in parallelo in modo da ridurre i tempi di calcolo. E quindi partiamo dalle equazioni che descrivono il sistema fisico, le approssimiamo, le codifichiamo in programmi di calcolo, e poi utilizziamo delle architetture di solito parallele per avere delle risposte numeriche da dare poi al medico. Questo è l'intero processo. Alessandro, mi rendo conto di avere veramente un sacco di domande da farti, però purtroppo dovrò tagliare qualche domanda per via della limitatezza del tempo. Una domanda però te la voglio fare sicuramente. In un ultimo vostro lavoro avete scoperto praticamente che la velocità del flusso sanguigno non si avvicina a una parabola, quindi non cala di velocità, ma in realtà si avvicina molto di più alla forma di una gaussiana, quindi praticamente prima una velocità minore, poi una velocità maggiore e poi ritorna ad avere una velocità minore. Ma sì, cioè diciamo, in moltissimi aspetti ingegneristici, prima che si potesse far riferimento all'uso di calcolatori così massiccio come facciamo noi, è chiaro che quello che gli ingegneri cercavano di fare prima ancora dei matematici era approssimiamo, facciamo delle approssimazioni con quello che conosciamo, e quindi è noto che il profilo di velocità di un fluido come può essere il sangue in un tubo cilindrico sotto certe condizioni è una parabola, un paraboloide. Peccato che queste condizioni sono ben lontano dall'essere verificate nei vasi sanguigni, perché i vasi sanguigni non sono cilindrici, non sono rigidi, e soprattutto il flusso del sangue non è stazionario, come dice la soluzione a parabola, che si chiama soluzione di Poiseuille. Allora, la cosa interessante è che queste approssimazioni ormai sono passate nell'uso ingegneristico, quindi ci sono macchine come per esempio gli ultrasound che cercano di dedurre da misure di velocità e misure di flusso sanguigno utilizzando queste approssimazioni. Ora, dal mio punto di vista non ha più senso che queste approssimazioni continuino a essere usate, vale la pena utilizzare anche questi strumenti matematici per avere un'immediata ricaduta in ambito clinico e in ambito delle misure mediche, perché possiamo sostituire, ed è quello che abbiamo fatto in quell'articolo, all'uso della parabola abbiamo sostituito i nostri calcoli, che quindi utilizzano profili di velocità più corretti, mostrando che usando le nostre formule possiamo ridurre in certi casi, particolarmente fortunati, possiamo passare da approssimazioni dell'ordine del 30% ad approssimazioni dell'ordine del 5%, e questo, diciamo, in prospettiva, se noi sappiamo valutare bene il flusso sanguigno con un errore più basso, possiamo distinguere per esempio se un paziente ha veramente una patologia oppure no. Possiamo cercare di identificare se il flusso coronarico, che è quello che stiamo facendo in questi giorni, se il flusso coronarico di un paziente è corretto oppure no, ma lo possiamo stabilire con maggior precisione. Cioè, il messaggio che voglio dare è che l'uso di strumenti matematici sofisticati non è solo un esercizio lontano dalla prassi, ma in questo caso diventa veramente un'attività che ha un impatto anche immediato nella vita di tutti i giorni, per migliorare la pratica clinica. Questo è l'obiettivo su cui lavoravo prima al Politecnico di Milano e poi adesso a Emory, dove sicuramente l'ambito medico è molto, molto recettivo rispetto alle nuove tecnologie. E in quell'articolo effettivamente si faceva vedere che, presi anche dei pazienti volontari in questo caso, sui quali abbiamo fatto delle misure, le nostre formule migliorano significativamente le stime dei flussi, usando solo tecniche matematiche, non hardware, solo un po' più di matematica sofisticata. Se mi posso permettere di semplificare, quindi il corpo umano semplificato come se fosse uno strumento matematico e poi attraverso gli strumenti matematici la descrizione del corpo umano per vedere come reagisce a particolari stimoli, per esempio al rilascio di alcune medicine, eccetera, eccetera. Sì, sì, questo è un aspetto fondamentale che con la matematica si può fare, cioè la matematica ha una intrinseca capacità predittiva, come dicevo prima, che di cui tutti noi usufruiamo quando guardiamo le previsioni del tempo, e questo è esattamente l'ambito in cui in ambito medico possiamo diventare predittivi. Dal 1999 è uscito un articolo in cui si parla di chirurgia predittiva, cioè chi mi ascolta penso che non faccia fatica a immaginare, soprattutto se ha avuto purtroppo magari delle storie di familiari, di pazienti che hanno dovuto subire un intervento chirurgico, come può migliorare l'attività di un medico se lui può simulare, quindi fare in un mondo virtuale il suo intervento, vedere se va bene o se va male, correggerlo nel mondo virtuale dove tutto, anche gli errori sono consentiti, e quando si è fatto un'idea nel mondo virtuale provare a quel punto farlo, ma con maggior cognizione di causa, nel mondo reale, quindi sul paziente. Questa cosa non siamo lontani da questo, si fa praticamente già in alcuni centri. Io ho menzionato prima il chirurgo Mark Della Valla, che era a Londra, il quale ci aveva chiesto di provare a vedere diverse varianti di un intervento di chirurgia pediatrica, e quando le ha viste più o meno si è fatto un'idea di quale fosse la migliore. La medicina non è una scienza esatta, quindi permette molte interpretazioni soggettive, però noi con gli strumenti matematici possiamo dare a un medico degli strumenti più oggettivi sulla base dei quali poi lui può prendere le sue decisioni. Noi non vogliamo sostituire i medici, vogliamo aiutare i medici con strumenti un po' più oggettivi e quantitativi a prendere le decisioni migliori possibili. Alessandro, adesso ci andiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo musicale, poi torneremo in studio e concluderemo la trasmissione. E allora Alessandro, siamo arrivati nella parte finale della trasmissione, quindi nella parte finale di Cacciafotone, e quindi l'ultima domanda è, come al solito, una domanda personale. Tu sei quello che normalmente qui in Italia definiamo un cervello in fuga, poi non si capisce perché questa definizione di cervello in fuga, sembra che il cervello scappa e le gambe restano in Italia. Comunque, non ti voglio chiedere obiettivamente se la ricerca è più finanziata in America piuttosto che in Italia, questo è abbastanza palese, ma quali sono le differenze strutturali che hai notato tra un paese e l'altro? Sicuramente negli Stati Uniti c'è una competizione maggiore, cioè c'è una tutta la struttura della carriera di un docente universitario è basata sulla competizione. Io vivo in un'università dove ho dei rapporti fantastici con i miei colleghi, Michele Bentri, Zinneghi, sono Michele Bentri tra l'altro un italiano anche lui, sono di Bologna, sono persone fantastiche, abbiamo ottimi rapporti, però è chiaro che fra università c'è una competizione forte per ricevere finanziamenti che sono sicuramente, come si diceva, più copiosi di quelli in Italia. Quindi diciamo è molto difficile potersi sedere o diciamo un po' rallentare negli Stati Uniti, bisogna cercare di mantenersi ad alti livelli. Perché? Perché poi questo banalmente incide su tutta la, anche se vogliamo proprio essere venali, sullo stipendio, che non è uguale per tutti ma viene valutato in base al merito, ma in generale diciamo tutta l'avanzamento di carriera si basa sul fatto che uno riesca a garantire una produzione scientifica di qualità che viene misurata, certificata ogni anno. Ogni anno io sono tenuto a fare un rapporto annuale sulla mia attività e c'è nel dipartimento il direttore di dipartimento e poi diciamo gli altri organi di quella che si chiama il college controllano che la mia attività sia secondo certi standard e sulla base di quello poi decidono cosa fare di me, ecco. Quindi è un sistema molto basato sul merito e necessariamente questo significa che non c'è tanta gente nell'università, ci sono tante posizioni non permanenti, quindi tante posizioni a tempo determinato, ci sono tante occasioni e questo è bello perché io stesso sono riuscito, sfruttando il fatto che Emory ha creduto in me e quindi mi ha dato molti soldi all'inizio, ho portato là 9 persone, una decima arriverà ad agosto, per creare un gruppo di gente che poi prima o poi se ne andrà perché non ha una posizione permanente, ma intanto sta facendo una buona esperienza di ricerca ben pagata, cosa a cui io tengo molto, cioè tengo che la gente che fa ricerca fa un lavoro difficile, non difficilmente valutabile, ma comunque che si può valutare, quindi venga pagata bene perché è un lavoro che altri non sono in grado di fare, quindi loro lo fanno al meglio delle loro possibilità. Però ho anche detto che ho portato 10 persone, di fatto le ho portate tutte dall'Italia, questo non solo perché comunque rimango italiano e quindi il cuore, sì, il cervello è andato là, poi il cuore ma è rimasto un po' in Italia, però è vero che io ho avuto un'esperienza di docenza di alcuni anni al Politecnico di Milano dove ho visto crescere persone che poi a cui poi ho chiesto di seguirmi là e là si stanno facendo più che onore, cioè gli italiani che lavorano sul cardiovascolare in Italia, non lo dico perché sono il loro responsabile, però tutti mi hanno sempre detto che stanno dando prova di grandissimo valore. Questo vuol dire che almeno per la mia esperienza l'università italiana, nonostante tutto dal punto di vista della docenza, è in grado di preparare buoni professionisti per fare ricerca, paradossalmente poi non li valorizza, non li sa selezionare, non sa lasciare a casa magari quelli che meriterebbero di essere lasciati a casa e permette a quelli bravi magari di, non dico andare in fuga, ma poi magari poi tornano, ma comunque di andarsi a perfezionare fuori. Cioè, l'aspetto strano è che prepara degli ottimi laureati, potenziali buoni ricercatori e poi non è in grado magari di costruire le condizioni perché siano motivati a restare. Questo penso che sia un punto di riflessione, visto che in questi ultimi giorni ho visto parlare molto di riforme universitarie, c'è molto da lavorare, speriamo che si prendano decisioni giuste, ecco. Alessandro, dopo queste tue parole doverose, peraltro rappresentative proprio per il fatto che sei una persona che se n'è andata dall'Italia per andare a studiare in un altro paese, perché l'Italia non offre quello che offrono gli altri paesi riguardo la ricerca scientifica, così si conclude quindi Caccia al Fotone. Io, Alessandro, ti ringrazio per la partecipazione, saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Caccia Fotone e di Radio Città Fujiko e come al solito vi do appuntamento a sabato prossimo, stessa ora, stessa radio, stesso fotone. Buona scienza a tutti!